società dove voglio una e malavita. Che indusso cosa sai, sta serenata. Io sono innamorato di Margarita, a femmina più bella rinfrescata. L'ho portato a capo concertino, poi spizzi mi fa sentire cantare. Ma ci ho bevuto un bicchiere vino, perché stanotte voglio indossare. C'è da te voglio una e ma la vita. E a comparo da luna all'intrasatta, con le tue sfizie mi pare distrutto, perché la casta femmina mi ha fatto, vorrei che l'una se vestesse a lutto. Quando se ne venette a parte mia, ero giù qua per vascia sanità, ma caccia perso tutta o apparire. Caccia da me una rinda su città, c'è da te voglio e ma la vita. Suonate giovino buttate in mano, abboni da casto buone voce, io mi fide cantare fino a dimana e metto in croce a chi mi mise in croce, perché non bacio a tempo mandolino, perché a chitarra non si fa sentire, ma come chiagno tutto concertino. Dove avessi a chiagna rosolia, chiagna non sti, voglio.